girl. Your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bene, un saluto da K e Drago, bentornati a Chiedo Asilo. E io sono Drago, K è questo qui, cosa c'è? Cosa c'è? Sono il bidet di Kate Middleton. Ma cosa dici, K? Cosa? Tra l'altro il bidet di Kate Middleton non esiste notoriamente in Inghilterra, nemmeno a Buckingham Palace. Ma come ma vuoi mettere Kate Middleton? Ma, certo, ma allora hanno i bagni fatti dagli italiani, no? Come no? Inglese puro, anzi, sono sono la casa reale inglese, cosa vuoi Quindi che facciano? Non il si bidet lavano all'italiano. Certo, no, fanno come si fa lì. C'è la doccia, così. Tito, sì, anche tu avresti bisogno di una doccia ogni volta che ti portano il pratino, Sì, che Tito, dopo l'ascensore è vicina anche la tosatura. Anzi, come si chiama, lo stripping, e quindi vedremo poi Tito strippato come sarà. Strippato, va bene, ma che cosa starà facendo adesso Kate Middleton in questo preciso istante? K, abbandonati alla reverie, prova davvero a pensare a Kate alle 4:15, ora di Greenwich. Di? Dai, ora K, di? Non fare il pirla tutte come le volte. Pirla? Hai detto una roba che non si poteva sentire, magari Greenwich. Pure giusta, ma fa schifo, cos'è? Greenwich, pronuncia corretta del toponimo comunemente ed erroneamente pronunciato Greenwich. Sì, Greenwich. Sembri un po' Raffaella Carrà che parla in inglese to the perfetto, poi si rivolge a gente che non sa nemmeno che cos'è The Book is on the Table. Vabbè, però dai, passiamo oltre la fonetica un attimo e pensiamo alla nostra Kate, anzi alla tua Kate, no? Kate. Ex Kate Middleton, ora Lady Catherine Non importa. Winslow, per me lei rimarrà sempre Kate Middleton. Senti come suona bene, Kate Middleton. Kate Middleton, vedi come si appoggia Middleton, Invece adesso è Lady Catherine, mi dispiace per quella te. Kate Middleton che ho conosciuto a Volterra nel 99, no, dai. Aveva 17 anni la bella Kate. La tua versione da mitomane non mi piace, mi eravamo lì a Volterra. A Volterra, passeggiare nei vicoli, ci sono i vicoli a non Volterra. Lo so, io guardavo Kate. Dimmi com'è Volterra, dai. No, guardavo Kate, ti ho capito, detto. Però ti descriviti Volterra, Kate. Perché secondo me ci sei mai stato. No, ma altro che Kate Middleton. Io guardavo Kate. Tito, tu sta zitto. Dai, vabbè, allora, torniamo a Kate, K, che però Kate, scusa, devi rassegnarti perché per te rimarrà sempre una chimera, no? Chimera? Ma quali chimera? Un duo di voci bianche, che piaceva Ruggeri. Sì, va bene. Cosa c'entrano i chimera che sono due mostri con Kate? Vabbè, i chimera. Ormai siamo proprio al fondo del barile dell'umorismo verbale. Cosa? Con Eki Pop, i chimera, le voci bianche. Vabbè, sì. Lasciamo stare, parlaci di Kate, K. Dai, K, sai che K è l'iniziale di Kate? Ci hai mai pensato questo? Ma è un segno del destino questo. Lei porta il mio nome nel suo. Capito? Mica come William. William è il nome di una pera. Cosa c'entra William con Kate Middleton? Non credo che l'abbia scelto per il nome, K. Anzi, diciamo pure che lui era il miglior partito che c'era sulla faccia della terra. Vabbè, ma lascia che mi abbandoni un po' alla reverie. Ma hai detto, no? Allora, Kate, in questo preciso momento, dove sarà? Non so, Kate, quindi il tè? Il tè con i pasticcini salati. 5. Vabbè, ma lo sta preparando, lo prepara lei perché non ha la donna di servizio, lo prepara lei già con le sue un'ora manine. Prima si mette a preparare. E ha delle mani perfette, Kate, curatissime. Sì. E si mette lì e taglia il pan carré, che si chiama anche pan cassetto. Sì, il toast. Toast. No, lì poi il toast. Se non lo toasti, infatti, perché se non lo toasti, resta pan cassetto. Bene, e lei taglia. Te la vedi adesso, Kate, in cucina, piedi nudi, che taglia il suo pan cassetto e fa le tartine col cetriolino. Sì. Con la cucina moderna, secondo te? Cheddar cheese del 1600, sai, tempi di Shakespeare, moderno. Anzi, all'isola centrale, lei cammina a piedi nudi. Però attenzione, per Kate, l'isola, non ti avvicinare al frigorifero coi piedi nudi, perché ti potresti prendere la scossa. Vedi come sei così, Ma io ci tengo, ti prendi cura. Kate, i piedi nudi, cazzo! Well, I saw you with another. It made me lose my mind. Shot you with my 38. Now I'm doing time. You put me here. You put me here. Well, there's no way to doubt it. There ain't no two ways about it. As sure as your name's Kate, you put me here. Dai, parliamo un attimo di calcio, capo. Dai, un attimo. Dai, giusto un flash, un input, un feedback. Ma che cazzo stai dicendo? È solo una cosa. Volevo dire che la squadra di calcio per la quale si tifa qui a Chiedo Asilo è la Roma, la Magica, tutto qui. Poi un giorno spiegheremo il perché. Che significa la Magica? Che significa? Okay. No, Cruciani, sento Magica, faccio subito. Ah, la Magica. Cruciani. Comunque ma tu noi siamo Radio 24. Sì, ah, la radio di Cruciani. Va bene, ancora una volta sei sempre qui con questo complesso di inferiorità, ma stai tranquillo, no, adesso dai, fa anche la TV, allora, Cruciani. La Roma, allora noi tifiamo la Roma, cappa, la Roma. Sì. Ma io tu sei interista, a me non me ne frega niente. Sì, cosa? Ma in quanto Chiedo Asilo, in quanto asilo, stiamo per la Roma. Ecco, va bene, finita la parentesi calcistica. Insomma, dai, la Roma è la squadra più infantile della Serie A. Perché? L'abbiamo già detto, la storia dell'allenatore Montella, che in 24 ore è passato dal fare la balia ai bambini di 11 anni ad allenare in Serie A senza avvertire alcun cambiamento, no? E poi c'è Totti, no? Sì. C'è Totti, anche lo so questo, c'è Totti. Bravo, la Roma. Lo sai. Totti, certo, Pupone, c'è Totti, no? E Er Pupone non può che essere la mascotte di Chiedo Asilo. Comunque è un grande attore Totti, eh? Sì. Dai, un grande. Mi fa ridere quando fa quegli spot, ma anche proprio fa ridere anche tantissimo. Quindi è un grande. Un applauso al bambino Pupone Totti, bravo. Ma la clac? No, oggi la clac non c'è. Ma come non c'è? Drago? No, cosa non ho avuto fatto? Tempo e non avevo contanti. Ma il panino, la bibita, le cose. Niente. Facciamogli almeno un applauso io e te, sincero, spontaneo. Sicuramente ci sta ascoltando lui. Va bene. Ciao bambino Totti. Ciao. Bambino Totti. Ciao. Grazie. Okay, io che di calcio non so niente, io ho un debole per il Pupone. Bravo. Quindi è giusto, sì, che però poi l'asilo si tifi Roma. Sono la Roma, Totti a parte. No, come Totti a parte. Ok, stai tranquillo, Totti il motivo principale, però c'è anche il fatto che praticamente adesso i giocatori si autogestiscono, no? Come all'asilo, come se fosse un asilo liberato. Tanto c'è Montella che ha 36 anni come il sindaco Renzi, quindi fanno quello che vogliono, e infatti sono tutti lì a dire Montella deve restare anche l'anno prossimo. Ti credo. Adesso basta calcio. No dai, c'è ancora una piccola cosa. Quando la Roma deve vincere per andare in testa alla classifica o per passare il turno di Coppa, perde sempre, non c'è niente da fare. Immaturi, come possono non essere la nostra squadra? E allora intoniamo il canto propiziatorio di quel bamboccione di Venditti. Sei pronto? La Roma sai? Capoccia. No, grazie Roma. Vabbè, lo stesso, tanto non sono né una né l'altra. Ma cos'ha Tito? Drago, abituati, è così. Ma come abituati? Devo abituarmi al fatto che ringhi, minacci di mordere, sì, aggressivo perché così. Perché oltre ad avere la smania naturale in questo periodo di trovarsi la sua cagnetta a portata della sua altezza, del piccolino, e questo lo rende molto nervoso perché ce n'è poche in giro, c'è la faccenda dell'invasione dei bassotti geure-geure. Perché Tito ha subito la trasformazione graduale in un bassotto geure-geure dopo aver usmato la pipì di un cane giapponese che stazionava per motivi ignoti qui vicino all'asilo, qui in Piazzale Lotto a Milano. E il cane giapponese non era un cane giapponese qualunque. Beh, scusa, quale cane giapponese è un cane giapponese qualunque in Piazzale Lotto a Milano? Voglio dire. Era infatti un cane radioattivo di Fukushima. Capito? E adesso da un momento all'altro Tito potrebbe trasformarsi definitivamente in un bassotto geure-geure. Vabbè, è tutto molto interessante, devo dire. Però che cos'è un bassotto geure-geure? Cioè, se si limita a fare geure-geure come adesso, non è che poi sia una trasformazione tanto epocale, cioè semplicemente da cucciolo pacioso Tito si sta trasformando in bassotto adulto spaccamaroni come ma sono tutti i bassotti. Ma cosa dici? La trasformazione sarà radicale, non lo riconosceremo neanche più Tito. L'ora è vicina, Drago, tra poco saremo gli sventurati testimoni della sciagura che passerà alla storia come l'invasione dei bassotti geure geure. Stordito dalle tracce organiche di un cane di Fukushima affiutate sul copertone di un'auto parcheggiata a Milano in Piazzale Lotto, l'inoffensivo bassottino Tito si è trasformato prodigiosamente in un ferocissimo e indomabile bassotto geure geure. Richiamati dal ringhio di Tito, centinaia, ma che dico, migliaia di bassotti geure geure stanno per invadere il mondo. Aiuto! Ah, aiuto! Ah, i bassotti geure geure, no! Prossimamente su queste frequenze l'invasione dei bassotti geure geure. Va bene, siamo quasi alla fine della puntata. Non sappiamo come far passare questi ultimi secondi. No, quindi siamo sperimentale. Qui, sigla sperimentale di Chiedo Asilo. È radio24.it. Ho detto il nome del programma e la mail tutto insieme. Chi ha capito, ha capito. Chi non ha capito. Tanto non scrive nessuno.